Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, sono qui con lo champagne. Parenzo, dove sei? Quale champagne? Aspetta, fermo. Evviva! Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Sto sbagliando tutto qua, aspetta. Libertà! Libertà! Ma sei impazzito? Aspetta, mi sta colando tutto addosso. Libertà! Libertà! Porca puttana, guarda. Fatemi sentire subito Farage, mitico Farage. Farage ha detto siamo finalmente ce l'abbiamo fatta senza sparare un colpo. Qui è un po' esagerato, signor che Farage. Disastro, aspetta, libertà! L'altra bottiglia, fatemi aprire l'altra. We will have done it without having to fight, without a single bullet being fired. We have done it by damned hard work on the ground. Ah, vogliamo riprendere uno sgarbone di qualche tempo fa, eh? Fatemi sentire un po'. Da Churchill a Farage siamo passati, mamma mia. Sai che ho bagnato tutto qua. Fammi sentire uno sgarbone di qualche tempo fa. Ma tu sei pazzo, tu sei felice per la Brexit. Felicissimo. Perché a te piace il caos. Mi piace un po' il caos, è vero, sì. Mi piace un po' il caos. No, ma mi piace. No, non per ragioni lo sai economico, che... politico. No, mi piace. No, ma lascia perdere, quello non me ne frega niente. A me piace l'idea che la gente decida. E che qualche parruccone di quella baracca di burocrati di Bruxelles stia un po' sudando freddo. Questo mi piace un po'. Che stupidità, nessun parruccone di Bruxelles. Sgarbi euro. Allora l'euro fa cagare. Sì, però scusa. Quando io pago un gelato, quando lo so. Nel tuo abbiamo fatto una trasmissione, sei arrivato col carrello della spesa, sì, certo, ce lo ricordiamo. Sono fatto col gelato, col ghiacciolo da 4 euro. Solo tu li paghi 4 euro di ghiacciolo. Ma quali fede? I greci non volevano l'euro. D'altra parte, scusa per chiudere, la Svizzera ce l'ha. Mi fai parlare. L'Inghilterra ce l'ha. Vittorio, perché abbiamo avuto un attimo? Ci hanno preso per il culo. Ma gli orrori che vedi continuamente, il palazzo della regione Piemonte, i palazzi immondi di giustizia, le scuole fasulle, i ponti che crolla, il ponte di Calatrava, porca puttana, non voglio pagare una lira, non la voglio pagare. Io sono un cittadino, non sono chi ha deciso. Allora, l'euro, chi l'ha deciso, qua l'abbiamo detto, non i cittadini, neanche scusate, i deputati, però quattro stronzi. Che poi cosa c'entra il ponte di Calatrava con l'euro? Nulla, totalmente nulla, infatti. Vabbè ragazzi, allora da ieri sera lo scontro tra Brunetta e Vespa, spettacolare Brunetta. Cioè ormai Brunetta che litiga con un conduttore è una roba, una specie di format, diciamo la verità, televisivo. Cioè quando hai Brunetta, basta accendere, no non è nuovo, diciamo, però negli ultimi due anni si è accentuata questa cosa. Cioè tu praticamente basta che metti Brunetta e lo accendi su qualche cosa, no? Cioè gli fai una battutina eccetera, si scatena. In questo caso c'era collegato un finanziere, te lo ricordi, Davide Serra? Molto amico di Renzi, no? Il fatto che Vespa non abbia detto che Serra è amico di Renzi ha scatenato Brunetta. Le stime della riduzione del PIL innanzitutto sono dal 5% sino al 10% nel caso peggiore. Non è un rebrunetto, ma stai impazzendo? Sta parlando una persona, sei educato, la prego. Di posti di lavoro. No, che cosa? Qual è il... Se io prendo esempio i dati dell'associazione della Confindustria... Stia al suo posto, anche lei. Anche lei stia al suo posto. Lei non ha il diritto. E chi è? Lei ha il diritto. E chi è? Ma scusi, lei che titolo ha per interrompere una persona? È amico di Renzi. Oh, è questo un peccato mortale? Diciamo, no. È un peccato mortale. No, e allora qual è il problema? Ma diciamolo. Solo diciamolo. Ma perché se fosse amico suo avrebbe maggiore legittimità? Diciamolo. Dobbiamo fare un sondaggio per sapere come la pensano i finanzieri? Diciamolo. Solo diciamolo. Guardi, quando la propaganda politica non arriva a questo punto. Ma sì, politica. Scusi, eh? O quando la sottomissione politica. Qual è la sottomissione? Qual è la sottomissione? Perché questo tono qual è? Con me? Perché questo no, tono perché con questo tono me? Suo no, con lui. Io perché dico, lei è un ospite, lei di deve dire, rispettare. Anche lei è un ospite. Siamo ospiti no, tutti e no, io sono due. Qui indegnamente. E io ho ospitato. Sì. Siamo due ospiti in italiano. Onorevole Bruno. In italiano, onorevole Vespa. No, già ci hanno provato e non è andata bene. Le sto dicendo. A chi l'ha detto? Che io volevo che lei dicesse che questo finanziere non era un finanziere qualsiasi. Ma a lei pare normale che io dica allora imito questo medico che è il medico curante di con tutti per 500 va bene. Finanzieri grazie Londra, perfetto Davide lui. Serra grazie prego continui. Andiamo avanti andiamo continui avanti. Prego a la roba dell'altro mondo. Devo dire la verità, un po' Brunetta in questo caso, ma proprio un po' ha ragione. Ma che poi, vuol dire? No, dai, poi esagera, perché? Esagera perché la mette subito sul casino, a noi piace, va bene, per carità, ci sì, fa sempre ma questi. Ma c'entra, è un finanziere. No, d'accordo, però. Sì. Per Renzi, no, aspetta, molto semplice la cosa. Cioè, tu puoi presentare, è vero quello che dice, ci sono 500 finanzieri che parlano benissimo italiano e che hanno la stessa competenza di Davide Serra. Tu puoi invitare Davide Serra, benissimo, però dopo averlo invitato gli dici... Davide Serra è un italiano sì. Che vive e lavora a Londra e quindi è un sì, però non possiamo... è significativo per questo. No, no ma non è vero, non è... Della Leopolda, ma non è solo questo, è anche uno amico personale di Renzi, finanziatore di Renzi... Tu ma lo puoi. Però scusa, non è che le sue in quel caso lì non era di no, ma scusa, però abbi pazienza, è stato anche impredicato. Ma di... è la polemica che è sterile. No, non è affatto sterile. Poi lui la fa male. La lui la polemica la fa male perché la butta in caciara. E va bene, ed è Brunetta. Ma nel caso di specie, perché era importante? Perché secondo me, ma è giusto così, è giusto. Ma scusami, ma perché tu devi presentare una persona e non dire, tra l'altro, mica per marcarlo politicamente. Ma non c'entra per quello che dice, non c'entra in quel contesto. Ma c'entra sempre, che vuol dire? Se si parlava invece... Vabbè, non c'entra. Oh, scusami. Ha ragione ragazzi, ha sbagliato Modi, ma ha ragione Brunetta, punto e basta. Se l'argomento fosse stato... Bastava dire, tra l'altro, bastava dire, tra l'altro, bastava dire. Tra l'altro, ormai... Serra è uno finanziatore di Renzi, ha partecipato alla Leopolda. Cioè... Ma perché chi se ne frega dare un'informazione perché in più? Scusa, si parlava di Brexit. Tommy vabbè, Renzi. Non hai capito una mazza. Come al solito, non hai capito una mazza. Oh, ma ieri è stata anche una giornata calda da questo punto di vista. A un certo punto, Monti se n'è andato. Stiamo parlando di Mario Monti. Se n'è andato, si è alzato perché hanno fatto delle battute lì in studio da Mentana, c'era Tremonti, c'era Borghi, quello della Lega. Senti. Posso dire comunque, che la cosa più divertente della trasmissione è il professor Monti? No, non mi piace, questa, l'ho detto dall'inizio, ragazzi, scusate, è una cosa di rispetto da avere, cioè tutti la, quanti. La cosa la, ho avuto rispetto lui per gli italiani. Per le cose no, per favore. Ecco. Per le cose da fare. Prego. Direttore, la saluto, no, la ringrazio. Per le cose tantissimo. Da fare, la prego, la alla, prego, Presidente. A presto. Però il meglio è questo. Ma qui ci sono delle andare, cose no, dai. La ringrazio tantissimo. Ma direttore, non abbiamo un bisogno di ammirazione. No. Non sapevo che avesse messo su una trasmissione di entertainment. Purtroppo i minuti a disposizione sono limitati, io devo salutarla. Grazie mille. La ringrazio. Devo dire la verità che ogni tanto Monti viene fuori con delle battute eccezionali. Inglesi, cioè, direi scumo. Sì, perché non è proprio quello solamente con l'Oden, tutto preciso, eccetera, eccetera. Direttore, non pensavo che lei avesse messo su una trasmissione di entertainment, bellissimo. Cioè, considerava quei due là, quei due studio, certo, dei pagliacci, certo. Dei buffoni, esatto, cioè dei esatto. Comici. Ma è molto bello il piano d'ascolto su Tremonti. Vabbè, ma adesso quello sono cazzo di cui ti occupi te, ma che cazzo ci frega a noi del piano d'ascolto? Questo fa parte. Ma chi se ne frega? Ma questo sono i malati che devono vedere tutto dalla televisione, eccetera. La televisione, cioè le vedi anche le cose. Mamma mia, che noia! Le vedi. Ma poi l'hai fatta quella piccola speculazione sulla sterlina o no? Che volevi fare? T'ho no, pizzicata, non l'ho fatta, però in realtà non era una speculazione. Ho provato, infatti, me l'hanno anche scritto su Twitter. Ho provato semplicemente a spiegare quello che molti in realtà hanno fatto, cioè cosa è successo fino a ieri. Ma no, hai fatto una cazzata, dai, su. Cioè, se l'hai se l'avessi fatto, avresti fatto una gran cazzata. Fino a ieri la sterlina era altissima. Infatti, chi l'ha venduta ieri ci ha guadagnato perché l'avrà comprata. Poi ieri l'ha venduta al massimo storico. Vabbè, se l'avessi comprata in previsione del di quello che è. Se l'avessi venduta oggi l'avrei presa del 100. Esatto. Se invece l'avessi comprata e, come qualche amico aveva suggerito, l'avessi venduta ad urne aperte, ci avrei guadagnato moltissimo. Vabbè, adesso stai cercando come al solito. No! Stai cercando Scalfarotto, soldi da parte. Sì, vabbè, il tuo amico Scalfarotto, questa mattina stavo seguendo una delle tante trasmissioni, una noia mortale. No, ma quale noia, meravigliosa. Una noia mortale, in generale. Sì. Ha detto che il sacrificio della Cox è stato inutile. Proprio così, il sacrificio della Cox è stato inutile. Perché soprattutto nei giorni precedenti all'omicidio della povera Jo Cox, che vorrei ricordare in questo momento anche con commozione, perché il suo sacrificio è stato anche inutile, è stato orribilmente inutile. Sì, cioè, se l'avesse detto un leghista se lo sarebbero mangiato. Se lo sarebbero mangiato. Beh, se pensi che nel collegio elettorale della Cox ha stravinto la Brexit. Sì, ma scusami, perché non vai alla frase che ha detto? Il sacrificio della Cox è stato inutile. Cioè, il sacrificio della Cox. Di per sé ha detto una cosa anche banale, no? Ma che banale? Ma non c'è stato nessun sacrificio. È un pazzo che l'ha ammazzata, punto e basta. Come no? Però è evidente che ha un valore politico quella roba di anni. Tutti l'hanno letta così anche in Inghilterra. Vabbè. Perché altrimenti. È chiaro che è un matto. È stra evidente che è un matto. Allora, senti ma un attimo. In molti, sì, quei giorni hanno detto sarà lei a salvare, vabbè, l'Inghilterra dalla Brexit. Ha detto una cazzata Scalfarotto, dai, su. Ma mica l'ho detto io, l'ho detto gli Ma perché non devi ammettere che ha detto una cazzata? Non riesco a capirlo. Boh, non... Quando Scalfarotto dice sciocchezze, ha detto una sciocchezza secondo me se ne è reso conto subito. Quindi non è stato un omicidio politico quello della Cox. Io non lo so, però lo dice indirettamente Scalfarotto e comunque non c'è, cioè, non è stato quello lì che ha urlato. Vabbè, lascia perdere. Senti ma cosa ha urlato? Sì, Britain First, eccetera. Ha urlato Veneto libero o ha urlato Cruciani boia o ha urlato Britain First? Allora, gli animalisti. Se ha urlato Cruciani boia, siamo d'accordo con te, ma non mi risulta che quella sia stata ammazzata al grido di Viva Radio 24. Hai finito? Hai finito? Bene. Allora, l'animalista Martani dice che 50 morti tra i cacciatori è una fortuna e si dovrebbero sparare tra di loro. Signora Martani. Ogni anno alla persona della cazzo ci sono minimo 50-60 morti, per fortuna tutti tra i cacciatori, quindi devono sparare tutti tra di loro, questa è la verità. Sono tragedie. Ma che tragedie? Ma se stessero a casa a guardare la televisione e invece rompe le palle agli animali. Che stronzate, mamma mia, cioè si dovrebbero sparare tra di loro, cioè non sono tragedie, 50 morti tra i cacciatori, e poi dice che sparerebbe i cacciatori. Io andrei con i fucili in mezzo ai boschi a sparare a loro. Ma io farei la caccia ai cacciatori. Sì, sì, assolutamente. Cara Daniela, io fra credo qualche giorno sarò insignito di una carica massima tra i cacciatori italiani, per cui non rompere i coglioni con queste stronzate e soprattutto non ci avresti il coraggio di andare a sparare ai cacciatori nemmeno se lo vedo, per cui stai tranquilla nel tuo veganesimo, stai calma, fatti qualche trombatina perché mi sembra che come hai detto tu forse hai bisogno un po' per smaltire questa rabbia nei confronti dei cacciatori, i quali possono essere contestati in tanti modi, ma non andare a sparare ai cacciatori, capito? Cara Daniela, baci, ciao. Aspetto tutta la giornata la zanzara, poi quando inizia comincio anch'io a preoccuparmi, perché so che dovrò trovare qualcosa di interessante da ascoltare durante quella rottura di palle del traffico. La zanzara. Quindi Parenzo aveva investito un po' in sterline. Bravo, bravo, grande David, bravo. E comunque a me della Brexit non me ne frega un cazzo. La scorsa settimana Parenzo, ah, facciamo speculazione, compriamo la sterlina, tanto la Brexit non passerà, guadagniamo. Ma che cazzo guadagni, Parenzo? Voglio sapere quanti soldi hai perso. Capisci di economia tu, quanto paperino, sei ridicolo. A me della Brexit non frega un cazzo, però sono contento che Parenzo abbia perso dei soldi col cambio sterlina-euro. Come godo. Voglio darvi una notizia, alla fine questa speculazione, questa presunta speculazione, Davide non l'ha fatta. Ecco, bravo, appunto. E vabbè, ma però... mi fa piacere che qualcuno gioisca se perdo dei soldi, mi fa godere. Ieri sera, a una certa ora, sei andato a letto scrivendo un tweet. A mezzanotte e mezza. Ripetilo un po', com'era il tweet? No, a mezzanotte e mezza, vedendo i sondaggi che sì, davano... Sì, vedendo i sondaggi, certo. Hai preso per buoni i sondaggi? Ho preso per buoni i sondaggi inglesi. Ha detto, meno male. Meno male, grandi pare, adesso cito, non mi ricordo a memoria. Grande democrazia, gli inglesi hanno dato grande prova di sé, scongiurata la tragedia della Brexit. Ma quale tragedia? Qui stiamo stappando lo champagne. Invece mi sono svegliato la mattina. Oh, che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto? Mi è venuto un coccolone. Perché mi avevano comprato i giornali, come al solito, li ho trovati vicino al letto, no? Ho trovato i giornali, Manco scendi a casa all'edicola per prenderti, no? Te li porta l'extra comunitario al letto, dai. No, extra comunitario no. Mi è arrivato questo pacco di giornali che mi è successo. Vabbè. La apro senza vedere la rete. E vedo i titoli del Corriere Repubblica che erano simili a quello che avevo scritto io. Cioè, c'era scritto, no? La classica cosa, testa. Poi verso le 10:30, tranquillamente. Ottimo. Non ci siamo parlati. Con grande calma, verso le 9 arriva First Coffee che mi viene portato. Sì, certo. Arriva la badante per i figli. Sì, arriva la badante extracomunitaria per i figli in nero. Diciamolo in nero. Diciamo cose vere. No, ma in nero, diciamolo. Andate a fare un'ispezione, vedrete che troverete sicuramente qualcosa in nero a casa di Parenzo. Stai dicendo una strozzata. Vabbè, insomma, hai scoperto alle 10:30 la realtà. E intanto non è la comunità italiana, non è in nero. Mi arriva, poi non me lo porta lei, ma me l'hanno altre persone. Mi arriva il scramble egg, quello solito, no? Sì, poi? Col bread toast, con white. Vabbè, poi? Toast, con il pane tostato già imburrato. E verso le 10 emergo, dopo questa colazione, essermi letto i giornali, emergo e accendo casualmente un televisore. E scopri un'altra cosa. Hanno ricoverato all'ospedale. Ma quale ricoverato? Che cazzo è? Sì, mi è venuto un coccolone. Vai, Luca da Roma, vai, Luca. Un coccolone. Pronto? Luca, dimmi. Sì, ci sono. Io volevo fare un paio di domandine a Parenzo. Vai. Perché siccome lui dice sempre che è bello, no? La democrazia è bella, si riempie la bocca di questa... meravigliosa parola di votare. Perché non esulti oggi, Parenzo, del meraviglioso voto? No, perché secondo lui manco si doveva votare, secondo lui. No, gli inglesi facciano quello che vogliono. No, guarda, la ragione, la cosa è molto semplice. In Italia non si può, perché come sai la Costituzione lo vieta, non si vota sui trattati internazionali né sulle leggi di bilancio, come sai. Questo è uno schifo, è un'immondizia. In Italia non si può fare. Dopodiché... sono contento che gli inglesi abbiano esercitato il loro diritto. È una grande democrazia. Vabbè, dai, forza, non fare. Hanno fatto una cazzata perché Camerun ha voluto. Vabbè, ragazzi, mi avete rotto le palle. Ciao, Luca. Nonostante fosse contrario. Va bene, Pippo da Bergamo, vai. Sempre, ciao Davide. Dimmi. Ma molto semplicemente, avrete sicuramente sentito la notizia del presunto tassista che ha subito violenze da parte di tre russe aventi. E non è stato questo il primo caso registrato in quelle latitudini. Sì, il famoso maschicidio. Esattamente, ma infatti il punto è, diciamo, una riflessione da due cose. Non c'è nessuna riflessione da fare, cioè no, ci sono... A quanto sembra non c'è nessun tipo di pena prevista per questo tipo di reato, perché evidentemente è una cosa non tanto comune, perché comunque non c'è pena. Se questo è stato aggredito e violentato, ci sarà una pena, no? A prescindere dal fatto... No, è stata abolita nel 2002 in Russia. Vabbè, ma chi se ne frega, Pippo? Dai, Eric, Treviso, dai. Eric, vai. Volevo fare gli auguri all'Inghilterra, agli inglesi, che hanno trionfato contro Bruxelles. l'Inghilterra bianca e tradizionalista. Ma che c'entra bianca, scusa? Che vedi? Vorrei coglioni all'Italia e dall'Europa. Senti, cretino. Un sacco di italiani che vivono e lavorano là, idiota. Cretino. Un sacco di italiani. Secondo, lavorano là, idiota, in Inghilterra. Parenzo, ti fai un favore. Scusa, cosa c'entra? Cosa c'entra l'Inghilterra bianca? Cosa c'entra? No, ma stai zitto un attimo, Eric, comando io qua, mica comandi tu. Non ho capito, che cosa significa l'Inghilterra bianca? Non c'entra una mazza? No, i veri inglesi che hanno fatto valere... Ma i veri inglesi chi? Ci sono un sacco di gente, c'è un sacco di gente di colore che magari ha votato per rimanere là, questo imbecille, dai. Francesco, Francesco, Siracusa, dai. Francesco, dimmi, caro, dimmi. Niente, io volevo parlare un attimo con Parenzo. Sì. Perché... praticamente lo volevo convincere a cambiare idea sull'uso delle armi, o meglio, su insegnare ad utilizzare le armi ai bambini. Sì. Beh, non ce la farà, non ci riuscirà. Probabilmente non ci riuscirò, visto e considerato la consistenza della testa di Parenzo. Appunto. Però io ci provo. Veloce, Ecco, insegnando a un bambino, come a chiunque altra persona, come si utilizza un'arma, praticamente si potrebbero evitare tanti incidenti. Sì. E comunque, nel caso in cui quel bambino si dovesse trovare nella condizione di dover utilizzare un'arma, saprebbe come utilizzarla. Sì. Questo può valere, parto appunto dal presupposto che, dal punto di vista sportivo, però, amico mio, la cosa possono iniziare a usare le armi, dal punto di vista sportivo, a 10 anni. Sì. Che cazzate. È vero. No, previsto dal regolamento CONI, non sono cazzate, sono previsioni. Si può usare quindi, per uno scopo specifico che è quello di uno sport. Vabbè, Francesco, non ho capito, ma tu hai nipoti, figli, eccetera? Io ho una figlia e sono un tiratore iscritto all'UITS. Ma vabbè, d'accordo, ma hai portato... l'utilizzo delle armi. Hai portato tuo figlio a sparare o no? Io a mia figlia ancora è troppo piccola, a 6 anni, però già ho fatto prendere in mano una pistola. Ma la porti? L'hai fatto, scusa, aspetta, l'hai fatto... messo... peraltro, vi dico pure una cosa. L'hai messo in mano una pistola? Sì, certo. Come l'hai messo in mano una pistola a 6 anni? Non ho capito. Mia figlia, la pistola, me l'ha vista quando io la utilizzavo. Gliel'hai data in mano? E praticamente io, scaricata e in sicurezza, gliel'ho fatta prendere in mano. La figlia di 6 anni con la pistola in mano, fermo. La figlia me l'ha ridata subito. No, vabbè, certo, però intanto c'ho avuto in mano una pistola a 6 anni, una pistola, per carità. Amore, adesso non rompermi i coglioni, che devo ascoltare la zanzara. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La zanzara. Favore Cruciani, fai un'edizione speciale della Zanzara con Carmine da Roma, Donato da Varese, Mauro da Mantova, Carlo da Roma, Ugo da Taranto, Giovanni da Campobasso. Ti prego, tutti in una puntata, li voglio tutti in una puntata. Bagno minimale in un ambulatorio sanitario. C'erano delle gocce gialle nel lavandino piccolo e mi sono detta, anche qui sono venuti crucianiani. Cruciani, devi smetterla di insegnare alla gente a fare le cose schifose. Change it, cara amica mia, io non ho mai detto che qualcuno deve sporcare facendo la pipì la tavoletta del bagno, soprattutto negli uffici pubblici o soprattutto nei luoghi pubblici. Ho semplicemente detto che a casa propria io ogni tanto, lo ripeto, ogni tanto lascio delle tracce, delle macchie, le classiche macchie gialle, quelle che ogni tanto, Parenzo, si incrostano, no? Ma cioè, che schifo. Si incrostano in bagno, ma sai, è che... proprio ma anche per terra, sai, anche per terra intorno, ogni tanto, perché la tua mamma è una persona così, l'ho vista una volta sola, si alza un po' la voce perché come al solito la tua mamma è una persona così elegante, educata, gentile, voglio dire, ma com'è che sei venuto così bene? No, perché ogni tanto per due giorni, cioè, quando non viene il signore a pulire a casa mia, lascio ogni tanto intorno al bagno tutte delle piccole tracce, piccole, invisibili. Ma perché fai così schifo? Ma ragazze, sono delle cose naturali. Quelle ragazze che ogni tanto soggiornano da te lautamente pagate. Ti assicuro, amore rubato per qualche ora. Quelle Ryanair del sesso che ogni tanto tu ospita, ma non si schifano di queste porcherie che trovano? No. Senti, io farei un tentativo per capire come l'hanno presa gli indipendentisti veneti questa notizia qua dell'Inghilterra. Sono intelligenti quelle, sì. Gli indipendentisti veneti, il Movimento di Liberazione Nazionale Veneta, c'è un tale che si chiama Omizzolo, mi sembra. Omizzolo credo che sia uno dei capi di questo Movimento di Liberazione Veneta. Io lo chiamerei, che dici? Vediamo, gente interessante, gente... Sì, pronto. Sì, Omizzolo? Sì, chi parla? Sì, qui Milano, Radio 24, buonasera. Mi dica. Senta, ma oggi è un grande giorno, no? Che cosa? No, dico, col referendum inglese, dico, è un grande giorno o no? E ora, cos'è che sei? No, dico, è un grande giorno. Ma che cosa, mo? Ma è importante, un giorno importante. No, ma se rompi i coglioni, dai, avanti. No! Vanno, se rompe, vai, dai. Scusa, vaffanculo, dai, vaffanculo e basta. Tu, allora, io, aspetta, fermo. Rotti i coglioni e basta, va bene? Aspetta. Pronto, vaffanculo. Aspetta. Ma scusa, ma vai, uno chiama questi qua per capire se sono felici, e la Gran Bretagna che esce da lei, dall'Europa, eccetera, e ti rispondono così, sti strozzi. Posso dirti che il Veneto non è in pacchette qua, però posso dirti questo. Vabbè, grande. Adesso non fare la sentiamo, chiamiamolo di nuovo, dai, chiamiamolo di nuovo. Pronto? Dimmi. Sono Marco. Marco chi? Scusami per quel coglione che chiama prima, quel Cruciani lì della radio. Scusami. Marco molto. Chi? Ma che Marco chi? Cosa vuoi? Parla di Veneto, tanto sto a parlare con mia, tu capio? No, l'ho capito tutto, te dico, scusami per quel mona che te chiama prima. Ma Marco chi? Che Marco sì tu, dai, dimmi no, che Marco. No, quell'altro, sei Giuseppe Cruciani, che è il mona di Roma, dai, che è il mona della radio di Roma. Sì, sì, sono amico, va bene. L'ho visto Veneto però. Ma no, Titi sì, sono amico, sì. Guarda, no, amico. Capito? Ma che cazzate di dire, avanti, ma non sto a perdere, avanti, non sta rompendo i coglioni. Ascoltami un attimo, ascoltami. Vaffanculo e basta, tu capito? Ascoltami un attimo, bisogna fare indipendenza adesso, bisogna... No. Fare l'indipendenza. Un coglione che ti parla così, tu capito? Chiamo da fare a battaglia, indipendenza, porca puttana! Ma non si può nemmeno parlare con questi, com'è possibile? Ho capito perché si arrabbia. Roba pazzesca. Comunque c'è un ascoltatore che suggerisce, perché non mandi Carmine da Susanna sulla Salaria? Potrebbe essere una buona cosa questa qua. Qual è Carmine? Carmine, il karma quotidiano, scusa. Carmine, allora, mandare Carmine sulla Salaria. Mandare Carmine da Susanna sulla Salaria. Mi raccomando, ragazzi, si può fare questo incontro incredibile. Carmine che va da Susanna sulla Salaria. Scusami, ma si può chiamare la Loret? Beh, sì, forse è una buona idea questa qua. Intanto Claudio, provincia di Venezia, dai. Claudio. Sì. Pronto, sì, io sono uno di quelli che andrebbe a sparare i cacciatori anch'io con la signora nei boschi. Bravo, no? Perché, bravo. Sì, perché si deve mettere un po' tutto l'orologio all'ora, no? Ossia, ci sono ogni che anno... Cos'è che si deve mettere, scusa? Cos'è che si deve mettere? L'orologio allora. L'orologio allora è un'espressione, bisogna rimettere la chiesa... Sono francofono di... Sì, diciamo, per carità, bisogna mettere l'église au centre du village. Allora, solo in Italia, figuriamoci il resto d'Europa e del mondo, si uccidono ogni anno 300 milioni di animali, più 50 milioni di feriti, e ogni anno il cacciatore, i cacciatori, sversano sul territorio italiano... 150.000 tonnellate di piombo. Sì. Allora, come vuoi, si rende conto di quanta gente fanno morire questi qua con l'avvelenamento? No, quanta gente, quanti animali? È diverso. Quanti animali? Sì, ma noi beviamo l'acqua. Noi beviamo l'acqua, il saturnismo si chiama questo. Sì, no? Vabbè, caro amico, cioè, resta una cosa molto semplice. Tu andresti ad ammazzare i cacciatori? No, è una battuta. Ma è una dire, battuta un cazzo, ma che vuol dire? Cioè, allora, ma perché scusa, non ti fanno pietà, non ti fanno uno si diverta a uccidere la femmina dell'elefante per divertimento. L'elefante, perché bellissimo, uno deve divertirsi a uccidere? Se loro vanno a sparare o vanno a Beirut o al combat col Daesh. D'accordo. Claudio, sparano sull'argilla, allora, sui cocci, Claudio, greco, io non ho capito, i 50 morti là che abbiamo capito ogni anno non ti fanno nessun tipo di tenerezza? No, nessuno, mi dispiace. Sei contento, anzi, sei contento. Se uno uccide gli animali, sei contento. Se uno deve uccidere, mi raccomando, se muore perché fa un'azione, ma loro si divertono. Eh beh, certo, si divertono. Ma si rende conto di divertirsi a uccidere? Ma dove? Se una tigre diventa una cosiddetta mangiatrice di uomo che prende gusto a uccidere, si uccide la tigre subito. E perché io devo lasciar vivere delle persone che si divertono a uccidere gli animali? Dunque, tu sei contento? Sei contento? Con quale diritto si può permettere di prendere la vita a 300 milioni di animali solo in Italia, solo qua? Con quale diritto? Perché ti appartiene la vita dell'animale? È una cosa non diversa. Non la vita dell'animale. Dove è scritto che appartiene la vita dell'animale? Ma quello che c'entra, quello è un altro discorso, la vita di un animale. Così, però tu paragoni la vita di un animale alla vita di un essere umano, sono due cose un po' diverse. Ma questo lo dice chi parla da umano, ma chi parla da animale? Perché tu che sei? No. Perché tu che sei? Scusa, non ho capito. No, io sono un animale nel senso che sono una persona che è un mammifero come un altro. Avrò un'anima, questo è ancora da provare. Ciao, io Claudio. Io sono una persona semplicemente che so. Sì, ho capito. Ciao. Veronica. Ciao, io sono Veronica. Sì, ascolta, Veronica. Ciao. Io non sono per l'uccisione dei cacciatori, mettiamolo subito in chiaro. Però non sono né vegana. Né animalista, sì. Io sono una persona realista. Secondo me i cacciatori un po' se la cercano, nel senso. Ma muoiono per incidenti, non si cercano nulla. Ci sono gente morta per gli incidenti. Ma se tu sai che ti possono sparare, tu non devi andare. Ma che vuol dire? Non siamo più degli uomini primitivi che dobbiamo andarci a cercare. Ma cosa vuol dire? Ma ci sono delle riserve naturali in cui queste possono farlo? E uno lo fa ovviamente, ma che discorso è? Io non sono animalista, non voglio difendere né i cacciatori né gli animali, ma che se ne stiano a casa, se la cercano. Vabbè, quindi Veronica, Veronica, tu sei legittimamente contro la caccia, io sono a favore, fate le vostre iniziative, eccetera, eccetera, chi se ne frega, va bene, cercate di bloccare la caccia, eccetera. Basta che non rompete i coglioni e basta che la gente... Arrivano prima gli esseri umani, però vabbè, e allora? Cercano i cacciatori, se la stanno cercando. Ma che se la stanno cercando? Ci sono degli incidenti che accadono, non dire stronzate, dai, su. Dai, ti saluto. Ciao. Ti saluti prima tu, ciao. Andrea Sassari, vai. Andrea? Pronto? Dai, dimmi. Ciao, Cruciani, ciao. Senti, innanzitutto voglio fare i complimenti. No, non c'è nessun complimento da fare, vai avanti. No, i complimenti a Parenzo, perché le sue previsioni sono rilevate molto azzeccate. Sia non ho fatto nessuna previsione. Non ho fatto la previsione sulla Brexit. Ho commentato l'exit di ieri. Certa la vittoria di quello. Dai, forza, Andrea, dai. In base ai sondaggi vabbè. Dovevo parlare una cosa importante con Cruciani, che in merito a quel musulmano che ha detto che praticamente non ci si può toccare con la mano destra, no? Sì. Praticamente questo è l'argomento che ti appartiene. Vabbè, parla di cose che sai. Vai a prendere un caffè a Napoletano, a Barisoni, poco zucchero e fammi parlare con Cruciani. Grazie. Parla con questo. Parla di allora, caro Cruciani. Bravo. Sì, mi sta interrompendo. No, no, dai, prego, prego. Io lo so che parla tu stai rosicando. Parla di quello che fatto stai le tue speculazioni, se tu hai fatto le tue speculazioni con le sterline, hai detto tiro del culo, però stacce, come veramente, si dice a Roma, e basta. Ora vorrei dire a Cruciani, no, che in merito a quel musulmano, allora lui si stava riferendo ad atti soprattutto impuri, come la masturbazione, no? Ma io dico una cosa semplice, per la masturbazione non c'è bisogno delle mani, non c'è bisogno delle mani. Come si fa, perché, scusa? Come si fa? Te lo spiego. No, no, allora, aspetta, fermala. Zanzare Uakbar, Zanzare Uakbar. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Allora, continua la saga Lo Cicero, signor Lo Cicero. Come sapete, è praticamente l'assessore in pectore allo sport e ai giovani a Roma, nella giunta grillina. Ha detto Frocetti, ha detto Zingari di merda, che risentiamo così en passant. Zingari di merda era un fuori onda durante un'intervista di fronte, credo, allo stadio Flaminio a Roma. A un certo punto passava lì una macchina, un motorino, non so, c'era un rumore, ha detto Zingari di merda. Come dire, qualcosa in più. Zingari di merda, scusate. Allora, da questo momento in poi è nata tutta una discussione intorno allo Cicero, è adatto a fare l'assessore o no? Io dico raggi resisti. Beh, non avevo dubbi. Raggi resisti. Di fronte a questo martellamento nei confronti del signor Lo Cicero. Beh, che... l'assessore alle gaffe può fare quello sicuro. L'assessore alle gaffe. L'assessore alle gaffe ha detto quella roba lì 10 anni fa in una biografia, Frocetti, che non è assolutamente una cosa omofoba. Seconda cosa, ha detto Zingari di merda in fuori onda di fronte a una macchina che passava di fronte. Non mi sembra che abbia commesso errori madornali. Comunque, chi se ne frega poi. Comunque, io dico raggi resisti. Addirittura, cosa è accaduto dopo, come sai? Una telecamera è andata lì, cioè una truppa è andata lì con una giornalista della 7, trasmissione aria che tira, e pare che lo Cicero abbia sfasciato la telecamera a questa signorina che si chiama Covelli. A quel punto si è avvicinato al finestrino dell'operatore che stava accanto a me e gli ha strappato praticamente. Ah, tu hai portato la telecamera, che questa qui ormai sono molto piccole. Le telecamere, questo è l'obiettivo. Allora, questa è la cinghia della telecamera che è stata strappata. Sì, è tutto nella colluttazione. In pochissimi minuti. Cioè, questo cos'è? L'orologio dell'operatore. È l'orologio dell'operatore che si è rotto. Sì, perché la prima volta ha staccato l'obiettivo e poi l'ha buttato a terra. Io non ho capito, questa telecamera si è rotta o no? Oppure ha semplicemente strappato il coso? Oppure si è rotto l'orologio? Cioè, non si è capito ancora bene. Comunque, dice che casa di Lo Cicero ha il filo spinato e la videosorveglianza. E vabbè, ma che cazzo vuol dire? Ma saranno cazzi suoi, perché uno può mettere il filo spinato a casa sua, quello sta in campagna. Uno può mettere anche i cannoni fuori da casa, no, forse. Adesso tu stai contestando il fatto che il signor Lo Cicero, ex rugbista. Senti, amico mio, va bene, metti le telecamere, metti le porte blindate, metti le griglie alle finestre, sono d'accordo. Il filo spinato, però, per carità, va bene. Ma io non ho capito perché questo non può mettere in campagna il filo spinato. Ma magari, guarda che sei curioso, Comunque, no, ma senti come lo racconta questa tua amica, questa Covelli. Ha il filo spinato. Beh, allora quella a casa sua mette quello che vuole, no? Tanto la casa di Lo Cicero è tutta circondata da filo spinato e videosorveglianza. E c'è una stradina di campagna, diciamo, adiacente alla sua villa. Io ho percorso quella macchina con il mio operatore quella stradina. E mentre torno indietro mi trovo davanti il gippone di Andrea Lo Cicero, che subito scende dalla macchina arrabbiato e viene verso di noi dicendo: non potete fare le riprese, non potete fare le riprese. Va bene ragazzi, andiamo. Fabio Forlì, vai. Sassari. No, chi c'era? Chi c'era qua? Andrea da Sassari, chi c'era? Sono no. Io, sono io, Fabio Di Forlì. Fabio, sì, Fabio. Volevo dire una cosa, io sono il primo italiano. Aspetta che spengo la radio. Spegni, spegni. Allora, sono il primo italiano che nel 60 ero a Londra. Sì. Nel 60. Mm. Fatto gli anni 60-70 a Londra. E beh, chi se ne frega. Volevo telefonare allora a Parenzo, dirgli chi è che vinceva. E sapevo io che vincevano lì. Non sapevi un cazzo, non lo sapeva nessuno, ma non lo sapeva nessuno che vincevano quelli. Io lo sapevo, tu lo sapevi, vabbè, d'accordo, lo sapevi. Ho fatto 20 anni là. Hai fatto 20 anni, ma che c'entra che hai fatto 20 anni là? E poi volevo anche dire dei cacciatori, quella signora che l'ha trattato un po' male, sì, quello che diceva che i cacciatori si devono sparare di loro, sì. Io sì, ogni d'estate, quando apro la caccia, sì, e vado fuori, sì, e torno a casa, ogni colpo che sento, sì, mando un accidente al cacciatore. Sì, cioè sei contento alla fine, sei contento. Comunque, se lei ha trattato molto male la signora. Abbastanza, sì. L'ha trattato molto male, non sì, deve. Sì. Non devo, sì. Non deve. Mi scusi, chiedo perdono, chiedo umilmente scusa. Chiedo umilmente però io sono d'accordo con lei. Sì, cioè tu sei contento se muoiono i cacciatori? No, no, se muoiono, però se si spara fra di loro, se... Beh, spararsi tra di loro significa che muoiono. Io ci vado a sparare, però se si... quando leggo sui giornali che uno si è spara fra di loro, sono contento. Le posso chiedere come mai lei purtroppo da Londra è tornato e non è rimasto a Londra? Posso chiedere senta, io quello che ho lo devo tutto all'Inghilterra. Ecco, ma perché ho lavorato là? Perché non è che ti Londra, mancano cervelli, ho conosciuto i Beatles, sono stato molto, Beatles, molto, molto, molto fortunato. I Beatles. E sono Beatles. Sempre stato trattato bene. Stato sì, certo. Sei stato però sono tornato. Che facevi a Londra? Perché non lo so, perché sono tornato. Dopo una settimana non che sono tornato, sì, ho telefonato qua, ho detto in Italia non ci stanno mai. Ho telefonato certo al mio fratello, ho detto qua non ci sto bene, mi hanno ripreso. Vabbè, ho guadagnato resta tanti soldi, mi sì sono fatto la mia casetta. Ma che facevi? Detto. Che facevi in Inghilterra? Lavoravo al Beachcomba Restaurante, il Mayfair Hotel, il più bel ristorante a quei tempi di Londra. E che facevi? Facevo un tipo capo cameriere. Capo cameriere. Però lì c'era era il top, era il top, sì. Dove si faceva? Era il top. Ci facevano 200 persone tutte le sere. Bravo, e alla fine prendevo 3 stipendi. Si trombava o no? Anche. Si trombava. Però ho conosciuto un'inglesina che aveva 16 anni e me lo sono sposata. No, per come 16 anni? Come 16 anni? Come 16 anni, scusa. Aveva 16 anni. Era della Cornovaglia, bellissima. 16 anni? Un pedofilo lei. Scusa, a 16 anni? No. Sì, sì, infatti aveva 16 no anni, sì. Ma si poteva sì, a 16 anni? Però me lo sono sposata, Beh, ho capito, ma 16 ma anni sempre. Ma 16 poi anni aveva. E poi sono venuto in Italia. Beh, ho capito, amico, ma tu quanti anni avevi tu? Io ho 23. 23 e lei 16, vabbè. Sì, però prima ero in Svizzera, prima ho fatto 5 anni in Svizzera. Vabbè. È stato bellissimo. Adesso ci vuoi raccontare tutta la tua vita? Feci la Svizzera? No, volevo dire che... No, le voglio dire un'altra cosa. Quando nel canale della Manica un giorno ci fu una gran tempesta, sì, che non si faceva avanti e indietro con le navi, gli inglesi dissero? Il continente è isolato. Sì, e allora? Ha capito, no? Il continente sì, è isolato. Sì, la battuta. Sì, ho capito. Scusi, volevo dire, l'ammiraglio Nelson lo ha conosciuto, l'ammiraglio Nelson. Sento, Trafalgar Square, bellissimo. No, in persona, l'ha conosciuto. Io ho girato con la l'ammiraglio l'ha conosciuto, immagino, come i Beatles, no? Guardi, i Beatles li ho conosciuti, li ho anche conosciuti sì uno per uno, E anche l'ammiraglio Nelson l'ha conosciuto, anche Churchill, immagino, l'ha conosciuto. Ma Churchill sicuro. Certo, sì, lo vedevo sempre dalla finestra. E anche e Shakespeare, magari, vi siete incontrati con Shakespeare no, qualche volta? Shakespeare no. No, comunque, Parenzo, no, io le potevo dire, guarda, ieri ho cercato di telefonargli sì, di scommettere sul libro, perché lo sapeva che dicevano. Va bene, Fabio, ciao tesoro, ciao. Corciano, io lo guardo sempre, sento sempre. Sì, non ti preoccupare, ti do un bacio in bocca con la lingua, sei un po' checca pure tu o no? Più no gentile con quelli che sono contro la caccia, perché guarda, sei un po' checca anche tu o no? Mattina si alzano e si vanno a divertire uccidendo degli animali proprio, non sta bene. Per carità ciao. Andrea Sassari, vai! Dai, volevo finire l'intervento di prima. Allora, praticamente io ti ho detto, ci siccome viviamo in un'Italia dalla visione boldriana. No, non si sente niente, non si sente niente. Marco da Cremona, vai. Ciao Cruciani. Ciao Marco. Ciao Parenzo. Dunque, voglio contare un episodio singolare che praticamente rispetto naturalmente ai musulmani che dicono che bisogna non avere la minigonna, le donne, non farsi guardare qui e là. Io sono che sono 40 anni che faccio immersioni, faccio fotografie subacquee con mia moglie, ho girato tutto il mondo. Sì. Sono andato in Borneo, sì, praticamente nello stato del Sabah. E allora? A Kota Kinabalu. Praticamente avevo un dovevo andare di corpo, dovevo fare roba solida. Praticamente allora ho chiesto dove era la toilette e sono andato, mi hanno indicato là in fondo, entro con mia moglie resta fuori. La porta è come quella di un saloon, no? Praticamente sì, quelli sì. Allora? Entro dentro, cazzo, cioè vedo una vasca con una praticamente una paletta per poi entro di là per andare nei cabinetti. Che cos'è che hai visto? Non ho capito che cosa hai visto. Entro nei bagni e praticamente vedo un salone con 7 turche, tutte libere, praticamente con gente che era lì che cagava. Io dovevo andare a cagare, poche parole, dovevo cagare in gruppo. Alla faccia, detto dalla pubblicità dei ma cosa scende? Ma che vuol dire? Non ho capito. Voglio dire che alla fine, cioè, se ma non c'hai niente musulmani... da. Ma che ne sai che erano musulmani quelli? No, come che ne sai che erano musulmani? Vabbè, ma che vuol dire? Turbate. Vabbè, ma cagavano nella loro turche. Ho capito, ma voglio dire, però non mi sembra tanto rispettoso andare a cagare in gruppo. Cioè, io dovevo fare. Ma era un bagno in un posto. Era tutto aperto, era un salone aperto con 7 turche, non 7 donne turche, 7 buchi. Sì, no, ma ho capito perfettamente. Ma questo tipo di racconto è. Ma non lo so, vuole raccontarci che in quel posto lì dove è andato, cagavano nello stesso bagno. Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Non vuol dire. Vabbè, ciao Marco, ciao, ciao, ciao. Ciao, basta, basta. Allora, mentre abbiamo Vittorio Sgarbi collegato, Vittorio? Eccolo. Eccolo, però ti voglio leggere una cosa che è abbastanza incredibile, scritta da Saviano. Beh, intanto come stai? Perché voglio sì, come è vero. No, sono episodi circoscritti, ho avuto dei calcoli renali e si fanno un male. Ecco, però due volte terribile. È successo, scusami. E due volte, che devo fare? Ma che cazzo sono sti calcoli renali? Scusa, non ho capito. Dei sassolini che rompono i coglioni tra la pancia. Devo bere acqua, tanta acqua. Esatto, devo bere acqua, Oggi tra ieri e oggi sono stato particolarmente bene. Forse ma che devi fare? Li devi togliere? Sono piccoli, vanno via da soli, devo pisciarli via. E vanno via con l'acqua, come dice giustamente l'ottimo dottor Parenzo. Va fatto così, anche a me è capitato una volta e mi hanno detto di bere... Ma è doloroso, perché è un dolore... È molto doloroso, sì. Ma dov'è che senti dolore? Allo stomaco? Dove sì, dolore allo stomaco, io poi l'avevo un po' più alto, poi è sceso. Sono stato 6 ore in tortura, mi hanno portato in elicottero all'ospedale sì, di sì, quello l'ho visto, sì, sì. Poi ho chiamato, non ti ho chiamato perché ho chiamato Cicconi che mi ha rassicurato, poi mi ha detto, pensavo che avessi avuto... È più doloroso di quei 4 coglioni che ogni tanto chiamano la radio, è più doloroso di quello, di questi... Ma io non ho capito, ma pensavi che fosse finita o no? No, perché avevo valutato pericoloso quello al cuore, ma in questa parte del corpo era come tipo un'ulcera, pensavo, però certo era sgradevole, era un male più forte, non mi sembrava meno... Meno definitivo, mentre l'altra volta ho avuto l'intuizione di fermarmi a... Certo, vabbè. Senti, comunque tutto a posto per adesso, sti calcoli. Grazie della vostra attenzione. Senti, no, Saviano ha detto una cosa assurda. Allora, Brexit ha vinto il popolo, me lo ricordo il popolo nel 38 acclamare Hitler e Mussolini a Roma affacciati insieme al balcone di Piazza Venezia. Me lo ricordo il popolo inebriato per la dichiarazione di guerra. Allora, ma si può dire... si può dire che Saviano ogni tanto, secondo me spesso, dice delle puttanate inaudite. Dite sì o no? No, ma non è un uomo molto intelligente, perché è un uomo che ha troppi soldi, ha troppo status symbol con questa scorta che lo difenderebbe solo lui perché gli altri giornalisti non corrono pericolo. Compenso ha fatto incriminare, hanno incriminato un bravissimo poliziotto che ha detto ma più bisogno della scorta un carabiniere o qualcuno che è in prima linea che non Saviano, si chiama Vittorio Pisani, l'hanno incriminato per aver detto lui, capo della squadra mobile, questa cosa la dico sempre perché lui l'ascolti, se ti ascolta il nostro Saviano. Per il resto è uno che ha avuto una grande fortuna, è una specie di Checco Zalone della editoria, questo è. Allora, con tutti i soldi che ha, non pensa che la democrazia è basata sul fatto che tu non puoi pagare le sigarette 5 euro, il giornale 1,70 euro, l'acqua minerale 2 euro, il gelato 3 euro. Se uno che guadagna 1.000 euro al mese, sì, che sono 2 milioni di lire, sì, quindi mettiamo, arriviamo addirittura a 1.500 euro, cioè uno guadagna 150, ma quante sono? No, facciamo, sfoghiamoci, 3.000 euro al mese, sì, sono, sì, 100 euro al giorno, 100 euro al giorno, con cui lui, non so, paga una mancia. Allora, come fa uno a vedere evaporare, non essendosi la lira, quelli che erano una volta 6 milioni, spendendo 30 euro al giorno in cose di cui non si accorge: acqua minerale, gelato, caffè, giornali, sigarette. Allora, l'euro è un ladrocinio, perché nelle cose piccole, come ho detto mille volte, se tu paghi un ghiacciolo 3 euro, sì, spendi 6.000 lire. Allora, sì, non rompe i coglioni. Quelli che guadagnano un millesimo di lui, sì, votano quando vanno a votare perché vogliono avere il loro denaro integro, non logorato da una moneta fatta da ladri, da capi di Stato e da bancari di merda. Non è che questi hanno votato perché sono come quelli di Hitler, hanno votato per difendere i soldi che lui guadagna in un giorno. Sì, no, ma infatti no, ma a me mi allora dà... è un ricotto, un signorotto, che deve fare le battute sulla democrazia perché tanto non ha altro da fare. No, ma io la cosa che, non, che trovo veramente insopportabile è questa roba qui di superiorità. Sì, cioè, sì, tutti quelli che hanno votato sono a favore dell'uscita, diciamo, sì, dall'Europa, della Gran Bretagna, sono vecchi. Innanzutto dicono i vecchi, è incredibile. Beh, questo lo dicono però. No, ma è vero, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma non ho capito perché un voto di uno di 70 anni o di 65 come ma Vittorio... Ma è uguale, ovviamente. E allora, ma che cazzo vuoi? Magari sottolineano che hanno interessi diversi, cioè l'interesse di un vecchio o di un anziano, che come dice Sgarbi non è il caso degli inglesi, ma ho capito, ma lo dicono, berlina, sì, ma lo dicono, quindi loro non hanno perso, sì, ma lo dicono, lo dicono con una sorta di snobismo, i giovani, sì, hanno, no, votato per rimanere, interessi contrapposti, certo, ma scusa, mi devi spiegare qual è il vantaggio di Cruciani, mio e anche di Saviano, a rimanere in Europa? Quale sarebbe il vantaggio? Ma no, il vantaggio che io penso di rimanere, che ci sia oggettivo di rimanere in Europa, è che l'idea che uno Stato oggi possa competere con la Cina, l'India, l'America è una follia. Cioè, io non penso che oggi però l'Italia... Faccio un esempio a te che sei un ragazzo molto avveduto. In Israele che moneta avete? Lo shekel, che infatti... E allora come fate? Come fate? Beh, siete però in difficoltà? Sistema... Avete no, problemi hanno... con gli dollari? No, lì però hanno... sistema anche di industriale che è radicalmente diverso da quello dell'Italia, hanno un sistema che del mercato del lavoro. Sì, ma che dico, molto... faccio un altro esempio, la Svizzera come vive? La Norvegia come vive? Cioè, non ho capito che siamo. Io credo che l'autonomia monetaria da sola con la liretta. Sì, lui vuole, lui ha detto, ha scritto, Italia... adesso bisogna fare pure in Italia il referendum, vero? Sì, però mi ha spiegato Salvini che noi abbiamo una legge che impedisce sui trattati internazionali, sì, purtroppo sì, purtroppo di fare il sì, referendum. Purtroppo. Però il referendum desse ragione, come io credo, no, il 52... Hai visto, tra l'altro, che il referendum per uscire dell'Inghilterra ha ottenuto lo stesso risultato di Sala contro Parisi. Sì, 52 a 48. Quindi è divertente questa cosa. Vuol dire che anche Sala è un'espressione del fascismo? Di una maggioranza fascista? No, ma dai, Saviano è veramente insopportabile quando scrive queste il cose qua. Il fascismo non c'entra nulla, anche perché gli inglesi, per loro fortuna, non hanno avuto né fascisti né nazisti. Ragazzi, gli inglesi. Ma comunque, quando il popolo vota, ma sulla questione monetaria, il fatto che uno voglia avere una moneta che gli dà delle garanzie, che l'euro già non ce l'avevano dà, loro. È lecito. Ma gli inglesi già l'avevano la sterlina, infatti, per questo è una follia. Vabbè, vogliono andarsene pure da quel baraccone dell'Unione Europea. Saranno padroni di andarsene da quel baraccone, sì o no? Cioè, saranno padroni, sì o no? È sì, una follia, ma va bene. Sarà una follia. E tanto, tutti gli scenari catastrofici che stanno facendo in queste ore, chissà che è tutto da verificare questa roba tutto qua. È tutto da verificare. Tutti gli scenari catastrofici, i giocatori... Adesso ci sono gli scozzesi che, ad esempio, se ne vogliono andare dall'Inghilterra. Vabbè, ma se assurda. La cosa paradossale è che gli scozzesi che volevano secedere dall'Inghilterra hanno votato a favore dell'Unione Europea, sì, quindi contro l'uscita. Vabbè. E oggi vogliono farsi tutti i bagni da soli gli scozzesi ora, o l'Irlanda. Ma che cazzo è? Poi dopo cosa arriva? Il Veneto che secede dall'Italia e vuole tornare a fare l'indipendenza della Padania contro... Ma che è una follia assoluta. Il Veneto. Adesso il Veneto improvvisamente... Senti Vittorio, ma tu sei andato a vedere quella roba di Cristo là, Iseo? Sì, sì, ne ho anche scritto a lungo. Quella è una invenzione formidabile dal punto di vista della comunicazione. Però vai lì e poi ti fai una sega. È una cosa che non senso, ha nessun significato. Quella è un'opera d'arte, per modo di dire, ma chiamiamola pure tale. Io la trovo una cosa fenomenale che noi non siamo riusciti però a organizzare bene, perché esattamente è quello che ho scritto io. Cioè, tu arrivi in quei posti remoti e bellissimi in cui ci sono i capolavori di Lorenzo Lotto, di Romanino, di Moretto da Brescia, musei bellissimi, siti archeologici, tutto chiuso. Sì. Se arrivi lì, vedi dove sei andato, non è che siamo in Arizona. Cioè vai a vedere, vai a vedere quella roba, fai quella roba di Cristo e poi vai intorno. Io faccio un ponte che ti collega dal Campidoglio al Vaticano, non è che poi in Vaticano non entro. Qui ci sono almeno 10 luoghi, come ho scritto sul Corriere sulla giornata ieri, di assoluta importanza universale. Lorenzo Lotto a Trescore, sì, tu non l'hai mai visto, 10 km dal Lago d'Iseo, è come Raffaello in Vaticano. È una cosa sublime. No, ma la cosa incredibile è che noi siamo riusciti a fare questa cosa pazzesca dal punto di vista turistico, eccetera, con le file. Poi purtroppo non siamo riusciti a organizzarla bene. Cioè, perché creare le file a una cosa del genere è una roba da dementi, una roba da pazzi. Cioè, il turismo che è nato con i grandi viaggiatori, venivano a vedere le cose d'Italia. Però quando Goethe arrivava, era favorito dalla passerella, meglio, ma la passerella lo portava da un punto a un altro. Quando io ho fatto la bellissima mostra di Salò, che forse non avete ancora visto, la Giotto dei Chirico, ho chiamato Beretta, non ho pensato di chiamare Maroni, perché anche la regione poteva, ho detto, scusi, ma quelli che vanno lì potrebbero sapere di fare 10 luoghi, tra cui Salò, che è a 30 km, per vedere una mostra piena di capolavori, che effimera. Le altre cose non sono effimere, ci sono sempre, fate un collegamento. Ci penso, la chiamiamo... Ma la loro estasi è vedere questa cosa, che è una bella idea in astratto, perché cammini sulle acque, poi prendi un panino e torni a casa. Cos'è servito al Lago d'Iseo? Dove, quando mio zio fece l'esame di maturità negli anni 65, io andai a vedere con lui, che era lì professore Iseo, gli affreschi di Romanino a Pisogne, Santa Maria della Neve. Non li conosce nessuno, invece conoscono sto cazzo di passerella. Aspetta un attimo, che è straordinaria, fermo lì che c'è la pubblicità, poi voglio dire una cosa sulla Raggi, lo Cicero, i Frocetti, aspetta. Il mio ragazzo mi dice di stare zitta quando c'è la zanzara. La zanzara. Allora, siamo con Vittorio Sgarbi. Devo dire la verità, più ripenso e più rileggo quello che ha scritto Saviano sulla questione inglese, più mi viene il sangue al cervello. Perché proprio a questi radical, non so come chiamarli, vabbè, ma forse non è nemmeno radical chic. Non c'entra nulla. Quando perdono, quando qualcosa va storto, la democrazia alla fine gli fa cagare a questi qua, capito? Cioè, questo è il punto. Quando invece le cose vanno per il verso giusto, la democrazia è meravigliosa, è bella. Io penso che anche Cameron si sia pentito di aver fatto il referendum. Ma questa è un'altra cosa, un'altra considerazione. Ma chi se ne frega che si è pentito o non si è pentito? Ma non me ne frega lui niente. Lui l'ha fatto perché voleva metterlo nel sottocoda a Boris Johnson. Mamma mia, ma non è la cosa importante questa qua? C'è anche questo. Cameron voleva metterlo nel sottocoda a Boris Johnson, invece se l'ha presa lui. Mamma mia, che cosa interessante. No, ma è molto semplice, è molto lineare, banale. Vittorio, tu ami la caccia? No, amo la caccia per come l'ha vissuta mio padre, ma io sono una generazione perduta, quindi non sono mai andato a caccia. Poi ama la caccia delle donne. È una caccia che non uccide. Sì, vabbè, ma ormai l'hai anche abbandonata questa storia qua. No. Cioè, ma sì, ma adesso... Ma che scherzi. Marco, tra calcoli e altre cose al cuore, non si può manco più trombare, ma che scherzi. Ci vogliono pacchi e pacchi di Viagra, ci vorranno. Pacchi e pacchi di Viagra. No, non si distrugge così un mito, non ce la farai. Guarda. No, ma non ce la voglio fare io a distruggere il mito. Parla per te. Dare suggerimenti. Eh? Mi stai dando dei suggerimenti? No, di rinunciare, sì, secondo me sì. Cioè, invece di rincorrere ancora questa sorta di quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Quello che hai fatto, hai fatto, basta. Cioè, che devi fare? Abbiamo fatto molto. Hai fatto molto, non è che puoi restare lì col rischio di qualcosa la notte, circondato da donne che arraccatti al volo per strada, dai. Cioè, non è possibile. Però, una cosa... Paterno. Sì, no, ma te lo dico per la tua salute. La cosa che ti chiedo, allora, viene messo sulla graticola lo Cicero, un ex rugbista che deve fare l'assessore della Raggi a Roma, perché ha detto la parola frocetto, cioè noi non ci proteggiamo, ha detto, noi i rugbisti, quelli che si proteggono, che si mettono le protezioni sul corpo, sono dei frocetti, che è una tipica espressione da lui utilizzata 10 anni fa, per dire, insomma, dei frocetti, un'espressione innocua. Luxuria ed altre organizzazioni, io l'associazionismo gay comincio a non sopportarlo più. L'associazionismo, non gli omosessuali, l'associazionismo. Hanno detto. Io gli ho dato già la risposta definitiva in una dissi culattoni per puro divertimento, c'è una parola affettuosa come frocetto, sì, che non ha nulla discriminatorio. Quelli invece che li chiamano gay omosessuali, sì, perché non chiamano Cruciani eterosessuale? Allora, la sola determinazione di un ambito per cui tu dici sono morti 49 omosessuali e non 49 uomini, sì, è vera omofobia. Chi usa la parola omosessuale indica un'area che è un'area protetta, ma le persone non devono essere protette, non c'è un paternalismo, quindi omosessuale, gay, frocio è paritario perché dice una cosa di cui l'altro deve in qualche modo mostrare reazione, sì, sì. No, noi siamo con gli omosessuali, ma gli omosessuali non sono con te, brutto stronzo, perché sono uomini e donne, l'unica forma civile è dire Cruciani è un uomo, non Cruciani è un eterosessuale. Sì, sì. Discrimino invece l'omosessuale, gay omosessuale, faccio la stessa cosa e lo chiamo frocio. Sì, sì. Frocio è l'omosessuale povero, che è l'omosessuale piccolo borghese e quello ricco e benestante. Gay, sì, quello che è il gay. Sì, quello sì. È gay. Ma Frocetti, gay. Frocetti, secondo te, Frocetti no? Frocetti è affettuoso, è come culattoni, è affettuoso. È un modo di dire una cosa, ma di cui nessun culattone si offende, nessun frocetto si offende. Ma dai, sì, è così, dai. No, sì. Dico, dipende chi lo dice. Ha detto da Sgarbi, sì, probabilmente. Se lo dicesse un esponente di Forza Nuova, secondo me vabbè, la ragione sarebbe diversa. Però io lo dici con un intendimento discriminatorio. Ma roba, qualcuno ha detto roba da Frocetti, no, non è esatto, che ti ha detto roba ma da... guarda, dai. Il grande filosofo Nietzsche, come tu sai, diceva che è importante chi dice le cose. Chi dice le cose è importante. Se Sgarbi dice frocio, è evidente che Sgarbi non fa nessuna discriminazione. Sì, però, se lo dice quel capito. Coglione di Forza Nuova lì, come si chiama, Fiore, non mi ricordo neanche come si chiama quello lì. Vabbè, ma se dice roba da Frocetti non è un'offesa, dai, su, no, non fare del deficiente. Se lui un po' mi preoccupo, no? Se Sgarbi mi dice... Ma perché non chiami la Raggi, non ti propongo, non fai l'assessore? No, io non voglio fare niente a Roma, anzi non ci sto neanche, cioè, ti passo, dormo, riparto. La città perduta per sempre. Perduta, sì, dovrebbe perduta. Fare l'assessore alla cultura Rom, cioè itinerante. Roma, sì, per i Rom potrebbe farlo. Ma che per i Rom, ragazzi, non mi parlate dei Rom. Del governo Casamonica. Bellissimo, l'assessore alla cultura del governo Casamonica. Questo dovrebbe... dobbiamo sempre andare a trovarli quelli, eh. Sì, andiamo. Quest'estate allora, guarda, anche dire Zingaro, che quello è uno zingaro. Sì. Che lo zingaro ne frega un po', però... stai dicendo una cosa negativa, cioè tutte le parole che indicano delle aree ristrette sono dei ghetti, sì, sì. Quindi non puoi dire io sto con gli omosessuali, io sto con uomini e donne che fanno quel cazzo che vogliono della loro figa, del loro culo, della loro bocca, non importa un cazzo, a me ne ha scritto una dicendo sai, dicono che tu sai, non so, vai dai con i trans, dico ma che sì. Cazzo, chi sono i trans? Io vado perché sono cazzi miei, vabbè, però, non è però, che ti, una logica. Però ti piacciono i trans? Perché sono donne caricature aumentate, sono un aumento della donna, mica sono i trans, non sono mica per i proci. Sono per gli etero, si vuole sono il maschio, sì. Quindi, ma non ho capito. Ma sono questioni, cioè la sessualità non può essere definitoria. No, però che cos'è che ti affascina dei trans? Spiegami, non riesco a capire cosa. No, è una cosa che diciamo da piccoli, io ero piccolo con Franco Maria Ricci, sì. Rispetto alle illuminazioni e i decori urbani delle città, i falò delle puttane, sì. Queste cose pasoliniane, sì, i sì. Crocioni che si divertono, sono festa e poi si manifesta nel gay pride. Allora, sì. Se il gay pride è divertente, uno che lo fa per lavoro lungo una strada è un divertimento che date, che passa, vedi, ti metti a guardare, cioè è spettacolo, è stellini. Non capisco perché. No, uno però vorrebbe... il trans, cos'è che ti attrae dei trans? Non capisco. No, il trans mi attrae semplicemente il fatto che la sua sessualità controversa sì. Mette in. La tua eterosessualità mette in discussione questo è divertente perché uno mica può dare per scontato che è eterosessuale in modo rigido, appunto il sesso non discrimina generi, noi siamo eterosessuali, omosessuali, bisessuali, siamo tutto, siamo tutto. Parenzo, tu sei tutto tu sei tutto perché non sperimenti, io perché sono non sperimenti fedele a un'azienda unica che è l'azienda femminile, però voglio dire non ho. Beh, sì, hai molte precusioni. Ciao Vittorio, ciao. Procetti. Allora, Rocco da Milano, vai. Rocco. Ciao Giuseppe. Dimmi Rocco, dimmi. Ciao, mi senti? No, niente, ho visto che avete anche toccato prima l'argomento Procetti, eccetera. Vai. E volevo intervenire riguardo a Vendola, no? Che secondo me Vendola, come hanno detto certi esponenti della Lega, che io non appoggio affatto, però hanno detto una cosa intelligente, Vendola va arrestato. intelligente, una puttanata, perché? Una puttanata. Ma come una puttanata? Ma fammi parlare, fammi finire. Ma tu dici, dai, dici che è una puttanata ancora. Ma hai dato tu voce a gente che va arrestato. Sai perché? Perché lui alimenta la fobia. Lui si comporta, fa quel genere di frociate che alla gente, diciamo, eterosessuale non piace. E quindi lui si comporta in quel modo che ti fa scatenare. Ma non ho capito che c'entra con l'arresto. Non ho capito. Ma va eliminato dalla società italiana, se ne vuole andare in Canada, che sia in Canada, che vada a fanculo, chi cazzo sente la mancanza sua? Come diceva il dio Donato da Varese, è una delle 40 persone più inutili dell'Italia, dei politici, prende pensioni, Donato, soldi, va in Canada, va in Canada, va in Canada, va in un posto dove, in un continente dove la gente fa le stragi, Orlando è lontana dal Canada, ma fa parte dell'America. Come che c'entra? Viene a dire che in Italia non ci sono i diritti civili per far crescere il tuo figlio, ma cosa pensi? Che quella, siamo quella una banda di. Quella è una puttanata, ma infatti è. Ma che c'entra che va eliminato? Va eliminato, che vuol dire? Va eliminato intellettualmente, istituzionalmente parlando, non dovete neanche più parlare di lui. Va sotterrato, va eliminato, dovete smettere di venderla. È una brutta, così impomatato, che va a farsi vedere in impomatato, televisione. Non mi pare impomatato. Cruciani, ascoltami, scusami, stai calmo, stai calmo, hai ragione, però ti capita mai, visto che non hai nessuna area politica di riferimento, che ti scatti l'antifascismo o il fascismo di fronte a delle manifestazioni bieche, integraliste? Di che parli? Di che stai parlando? Che quando io vedo un frocio, un omosessuale che si comporta in quel modo, mi scatta l'omofobia e mi arrabbio. Ma come? Si comporta omofobo in quel modo quale? Ma che va in televisione impomatato con quell'orecchino lì che dice quelle cose. Ma che c'è? Tu non puoi andare in televisione impomatato con l'orecchino? Ma siamo una democrazia, purtroppo, infatti su certi avversi e può parlare anche Pastrocchi. Ma diciamo la verità, Rocco, tu lo elimineresti proprio fisicamente, questo è il punto. Lo elimineresti fisicamente, Vendola? No, non ho detto questo. Io intellettualmente, istituzionalmente, io fisicamente non mi azzardo neanche a pronunciare una cosa del genere, perché penso che la violenza sia una cosa sbagliata, ma a livello psicologico, mentale, intellettuale, io lo disprezzo e io credo che debba essere eliminato anche da voi, che voi dovreste lavorare per eliminare noi facciamo il cazzo che ci pare, capito? Esatto, infatti mi piacete per questo. Ciao, caro. Brexit ha vinto il popolo che applaudì quando nel 41 veniva mandato al confino l'antifascista Spinelli, un'altra cazzata di Saviano. Nicolò da Udine, ma ti rendi conto o no? Brexit ha vinto il popolo che applaudiva quando nel 41, ma non c'entra una mazza, si può dire che non c'entra Spinelli, una mazza o no? Altiero Spinelli, oddio, ma perché devi stato... ma perché non devi dire che ha detto una puttanata? No, l'ho detto già prima. Ecco, già prima. Che il paragone con il fascismo non c'entra, ma è un paragone ridicolo che non c'entra nulla. Se fai decidere alla gente, al popolo, come dici tu, al ma popolo, non è che decidi su qualunque argomento di cui la gente magari non sa assolutamente niente. Va bene, Nicolò da Teramo. Teramo. Dimmi. Io sono d'accordo per una volta con Cruciani, questo è un voto populista, la democrazia diretta. Sei d'accordo con Parenzo, dice. Sì, la democrazia diretta non ci deve essere per queste cose. Fateli votare su l'etica, i froci, gli aborti, ma non sulle politiche monetarie, sulle politiche energetiche di un capo di paese. Questo è un altro calcio in faccia della generazione dei nostri padri, che hanno avuto mille opportunità, Scusami, Nicolò, non è che si sta votando su una cosa tecnica. È la stessa. Gli inglesi sono, da questo punto di vista, è una grande democrazia, perché ti fa votare su una cosa molto semplice. No, aspetta un attimo, fermo là. Hai visto come era congegnato questo referendum? Una cosa molto semplice, molto semplice. Volete rimanere nell'Unione Europea, sì o no? Sì, o lascia perdere. Sì, ma la conseguenza poi se la gestiscono i politici. Ma quello è un altro discorso, se la gestiscono i politici. Allora sì o no? Poi due minuti dopo, il primo ministro, non come in Italia che sono attaccati a quella minchia di poltrona come le cozze. Ma come? Cameron, aspetta, fermo. Perché era attaccato più dei fermo nostri. Fermo lì. Due minuti dopo, però, dopo aver perso. Cos'è che fa? Rassegna le dimissioni della Marina Regina. Questo si fa, non come da noi. Perché era attaccato. Vabbè, ma quella è una motivazione politica, non c'entra. No, è tutto lì. Ma non quello è un altro discorso. Non è un voto, che è un voto facile, quando sono le conseguenze importanti. Quello è un altro discorso. Del voto. Non è sì, Nicolò, no. Vabbè, ma se voi siete così snob, così elitari da dire che il popolo non può votare su queste cose, sono cazzi vostri. Non ne sa un cazzo, hanno votato, ha votato tutto. Non sai, invece sai tutto te. Invece sai tutto, è arrivato il sapientone, è arrivato il sapientone. Sa tutto lui. Sa tutto lui. Allora sa tutto lui, dai, sa tutto lui. Bravi, bravi, bravi, sai tutto tu. Mia nonna che ha 80 anni non sa cos'è la svalutazione. Non me ne frega niente, non la sa nemmeno te fino in fondo, non la sa nemmeno te. Non lo saprò, ma io eleggo chi mi vuole rappresentare in una commissione che prendi un tecnico per fare queste valutazioni. Ciao, non le possiamo ciao, fare noi. Ciao, ciao. Mamma mia, due pupazzi, ditelo che siete due pupazzi. Mamma mia. La Zanzara. Niente, che gli volevo dire, che ti ha fatto bella Monica, stavo proprio in mezzo a merda, se dice a Roma. Ah, ecco, una cosa, diciamo, sì, sì, un concetto allora, chiaro, ecco. Sì, perché sì. Fa proprio schifo. Sì. Perché ci stanno i sorcetti, ci stanno le sorche qua. C'ho il barcone che mi crolla, se sotto qualcuno muore, e sa piante il culo lui che muore. No, mi erano rimaste impresse queste voci di questa qua, di Torbella Monaca, stupendo. Il peggio di Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ascoltatore! Padania bella e libera, guardava. Altra cosa per i gay trans è continuare a inculcare questi gay pride, queste cose, questi gay, queste lesbiche. Adesso veramente iniziano a starmi sui coglioni. Cioè adesso veramente quando li vedo mi viene quell'urto di vomito che mi voglio ripestarli. Beh, moderato questo qua, eh. Moderato. I gay cominciano a starmi sui coglioni. Da vomito se li vedo mi viene voglia di pestarli. Vai vedere le tue braccia. E troviamo sempre lo psicologo, lo psichiatra d'ordinanza, che chiaramente si sa che per questi professionisti, chiamiamoli così, i tuoi omosessuali, i trans, quello che erano, passo anche le casistiche, sono persone molto poetiche, molto tranquille, sono persone perfettamente normali, capito? Insomma, ma se io mi sento un Pokémon, sono normale o posso sentirmi un Pokémon? Servi di Roma fuori? I preti, al posto di porre l'attenzione su questa truffa che ormai hanno psichiatrizzato in mezza Europa, ma non gli omosessuali o i trans, pensano a fare le zaganelle, le pizze, le pugnette al fratello migrante che ha bisogno di tanto affetto, perché il poverino non ci vuole neanche far quelle. Non fatevi pregare mai. Cioè, hai capito? Non so se si sentiva bene. I preti pensano solo a fare le pippe, le pugnette ai fratelli migranti. Fai sentire quanto questo dice il... Sì, sì, l'ascoltatore. L'Inghilterra ha lasciato l'Europa e Grillo si è suicidato. E adesso voglio vedere, lo dobbiamo sputtanare alla morte. Onore ai leoni inglesi che hanno avuto, nonostante tutto, compreso un morto, la schiena dritta e hanno salutato questa tirannia. Di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per... L'articolo di Severgnini, quel grande maestro di pensiero che tutto il mondo ci invidia, che anche lui è pieno di supponenze contro il Brexit. Il problema di Severgnini, purtroppo, è che nella sua scatola cranica ha soltanto 7-8 neuroni che per di più fanno sinapsi col suo buco. E uno lo usa per essere interista. Servi di Roma fuori. Con che cos'è che fanno sinapsi? Ah sì, col buco del culo, ha detto, sì. Padania libera, Padania libera, visto che non lo dite più voi, lo dico io adesso un po'. Padania libera, la strada per la libertà bisogna costruirla qua in Padania per creare un'identità padana. Non dobbiamo riempirci la bocca d'Italia ogni 5 minuti. La Padania libera. Questo vuole tornare alla Lega di prima, eh? Alla Lega di una volta. Sì, alle corna in testa, al Monviso, al Dio Po. Va bene, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Bergamo, Silvia, vai. Sì, ciao. Ciao, ciao. Senti, prima sentivo un po' quelli che intervenivano, che dicevano ci avrei scommesso, ho vissuto tanti anni in Inghilterra, e ci avrei scommesso per il nuovo e prendevate un po' per il culo, sì, facile dirlo adesso. Ma in realtà per me, che ero contraria alla Brexit, ma come tanti altri che ci ha vissuto un po' in Inghilterra e non nella super figa Londra, Cosmopolitan, cioè veramente era una scommessa... facile. Ma facilissima, tu dovevi... cioè io ci ho vissuto nell'86 a Vabbè, nord. Ma cosa c'entra? Dai, sono 30 anni fa, dai. No, ma ti spiego, sono ritornata. Questa simpatica e gentile signora che chiama, che sì? Ieri durante i sondaggi che hanno tratto in inganno anche me, ma hanno tratto in inganno un signore che si chiama Farage, che la prima dichiarazione che ha fatto sì, è vero. Farage, ma sì, certo, ho visto anch'io, infatti sono andata a letto tranquilla e felice per, esatto, dopo la sua dichiarazione. Uguale, io infatti sono, ero a favore del libro, però ripeto, sono stata nell'86 nel nord dell'Inghilterra. Vabbè, ma cosa c'entra questo? 30 anni fa, amica mia, 30 anni fa, dai. No, ma ci sono tornata 5 anni fa, sì, per rivedere, amici, situazione, uno squallor, un sacco di giovani che sono andati nell'esercito, giardini, sai il famoso giardino all'inglese? Non esistono. Ma e dove questo? Che loce? Carlisle, zone a nord, vabbè, allora? Adriano. Ma niente, tutto ciò per dire che tutti quelli che sono a favore del Remain, in realtà è vero un po' chi li critica, che sono cioè astratti e vivono al di sopra della vita reale. Va bene, Silvia, comunque... ciao. Mario Genova, dai, Mario. Pronto, Cruciani, buonasera. Vai, dimmi. Senti, io volevo esprimere il mio dissenso da quel ruffianismo che hai verso Sgarbi. Sì. Siete due penosi quando... No, ma direi anche Lecchino, perché solo ruffiano? Sì. No, bravo. Io tendo a non utilizzare termini volgari. No, ma Lecchino non è volgare. Lecchino non è volgare. Insomma, Lecchino è volgare. Certo, no! Certo, la linguaggio che usi tu, certamente... No, ma io dico anche di peggio, Sì, ma vedi, io, Cruciani, fossi un magistrato, un pubblico ministero, cercherei di toglierti i figli, se ne hai. I figli. Ma sì, ma perché no? Giudizio. Potrebbe essere una soluzione. Vedo che sei d'accordo, perché non hai parole. Ma guarda, credo veramente che potrebbe essere una possibilità questa qua. È una possibilità abbastanza concreta. Un ruffiano di merda e sei, scusa, mi adeguo al tuo linguaggio, sei un ruffiano di merda e non sei in grado di gestire dei figli. No, penso... Per cui che cazzo stai la radio a fare? Penso che non sono in grado di gestire dei figli. C'è un piccolissimo particolare però, che in questa radio... Se è piccolo puoi anche risparmiarselo. No, piccolo particolare, non ti preoccupare. Piccolo così per modo di dire. Piccolo, en passant, lo dico. Penoso, questo lo so. C'è un piccolo particolare che in questa radio, in questa fascia oraria, io faccio un livello abbastanza alto di ascolti e dunque non mi possono mandare via producendo e portando del denaro, e a questi ascolti contribuisci anche tu con le minchiate che stai dicendo, con le cazzate che stai dicendo, e non mi interessa, contribuisci in parte anche tu, perché contribuisci a questo show meraviglioso. Dunque tu, che sei evidentemente un cretino, show meraviglioso è un'autoproclamazione che assolutamente non compete, è uno show meraviglioso, devi non puoi dire sì io lo dico, diceva, chi ti loda, si e comunque loda. E comunque era ironico, imbecille. Stai attento a non offendere. Perché quando che fai? In difficoltà, perché che fai? Ti denuncio, caro amico. Che paura! Sto tremando. Sai quante denunce ho ricevuto da poveracci come te? Sai quante denunce poveraccio, ho ricevuto? Seconda offesa, sai, è tutto registrato. Vai. Ma sai quante denunce ho ricevuto? Lo sai quante non mi interessa quante ne Ma lo sai quante ne ho ricevute? Uguali stai a queste qua. Anche Corona diceva una così. Settantina. Anche Corona diceva così, ragazzi. Corona ha un'altra storia. Le condanne, cretinetti. 70. Sai come funziona il cumulo delle tutte vinte. Sai come funziona il cumulo delle pene? Sai cos'è il cumulo delle pene? Non ne ho nemmeno una, per cui stai zitto, sai muto. Sai cos'è il cumulo delle pene? Non ho capito la storia di mia figlia, sai, scusa. Continua la storia di mia figlia, che è interessante. Allora, io non so se tu hai dei figli, Sì, una di 11 anni, sì. Si chiama Viola. Penso che tu non sia in condizione. Mi sta ascoltando. Parla. Non mi interessa, cazzi miei. No, parlaci. Io ho difficoltà a parlare con te. No, parla. Parla tranquillo. Cara bambina, mi dispiace, ti sono vicino per avere un padre che ti insegna a parlare in questa maniera. Bravo, hai fatto a offendere le persone. Bravo, bravo. Sei tu che mi hai chiesto di dire quello che penso. Grazie scemetto, di questo, grazie. Scemetto. Grazie dello show che mi hai fai, offerto. Mi fai pena. Grazie, grazie dello show che hai offerto. Quando ti ringrazio con... tantissimo dello show che hai offerto. Ciao. Sì, cari, sono abbastanza sgarbiano. Avremmo avuto degli sì, scambi. Sì. Ma che scambi vuoi avere con quella faccia da buzzurro che ti ritrovi? Sì, ah, siamo alla faccia da buzzurro adesso. Ma siamo, guarda, siamo alla faccia da buzzurro. Siamo arrivati alla faccia da buzzurro. Siamo alla l'ombroso. Sì, sì, siamo arrivati all'ombroso e alla faccia da buzzurro. Bene. Vedo che sei passato. Vedo che sei passato all'ombroso e alla faccia, bene. Hai un'idea di cosa diceva l'ombroso sì, dell'uomo con la fronte come la tua? Sì, lo assolutamente, sai? Sì, sì. E allora leggi sì, e leggo. Rispecchiati quello che leggerai. Aspetta, mi è caduto una cosa. Da dire? No, mi è caduto una cosa, scusa, aspetta un attimo. Ti sei cagato addosso. Lo so, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Devo raccogliere un po' la merda che mi è caduta sotto. Scusa, è vero, me la sono tu sei fatta quello sotto. Che si caga addosso e che si piscia addosso, me l'ero dimenticato. Eh sì, purtroppo sì. Guarda, purtroppo apriamo questo argomento. Ma io, ti ringrazio, ma io ti continuo a ringraziarti per questo meraviglioso show che ci stai offrendo. Ma infatti ho telefonato. Ci regali minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti, minuti. Ho telefonato per questo, ho spiegato. Sei straordinario. Che mi ha risposto che sei fantastico. Avrei tirato un po' sul tenore della conversazione. Sei fantastico, sei fantastico. Stavate andando molto, molto giù quando parlate con Sgarbi. Oh, Sgarbi, come stai? Che bello. E gli leccate il culo e vai e tu e ma tu non sei nemmeno in grado. Tu non sei nemmeno in grado di arrivare ad un'unghia di Sgarbi, ad un'unghia, capito? Non sei in grado, non sei in grado. Da che cosa lo desumi? Ma è chiaro, non sei nemmeno in grado di arrivare a un'unghia. E a me al massimo, mi puoi pulire le scarpe, capito? Mi puoi pulire le scarpe. Per quali motivi? Spiegami. Perché non vieni qui a pulirmi le scarpe? Vieni a pulirmi le scarpe. Vieni a pulirmi le scarpe. Motivi. Ho bisogno, siccome non mi pulisco mai, ma vieni a pulirmi le scarpe. Ma perché non mi viene a pulire le scarpe? Dai. Spiega 5 motivi. Siccome non le pulisco mai e l'inserviente è l'inserviente. Spiega 5 motivi per no, diglielo, diglielo. No, vorrei rassicurare. Non avete risposta. Aspetta, stai zitto un attimo, muto. Non avete risposta. Muto cretino, aspetta che ti parla Parenzo, muto cretino. Vorrei soltanto rassicurare l'ascoltatore che in questi 4 minuti di pubblicità abbiamo venduto 3 spot. Quindi abbiamo ma lo so bene ogni volta che chiamo dunque grazie questo, grazie no, grazie ma non era per voi grazie loro, grazie grazie vuoi ringraziarlo Parenzo ringrazia un attimo ma certo che ho chiamato per questo grazie adesso vai gentilmente aspetta fermo vai gentilmente a fare in culo adesso gentilmente adesso gentilmente con una carezza tira fuori un motivo. Gentilmente con una carezza un ma quale motivo di quale, che cosa di che cosa per il quale hai fatto l'affermazione ma che sono di... che sono Prodi io che faccio le affermazioni ma chi mi hai preso per Prodi ma allora gentilmente con una carezza anticipo, vai a fare in culo bravo con una carezza gentile vai a fare in culo vai a fanculo vai tranquillo con una carezza gentile un leccaculo di merda bravo sì bravo minuti pubblicità soldi pubblicità, soldi, grazie, 4, 5, 6 spot, grazie. Ti abbraccio, Che non hai altro da dire, baci, vai a far baci, culo. Baci, ti amo. Certo che ce l'avete così tanto con gli animalisti, ma alla fine ci sono cani che si lavano più spesso di Cruciani. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Caro Cruciani, fai ridere perché ti brucia tanto il fatto del Movimento 5 Stelle, del tuo amico Giacchetti che chissà magari ti aveva pure promesso qualcosina. Ammazzati, coglione. Whee! Pronto? Che cos'è che mi ha proposto Giachetti? Ehi! Pronto, sì? Sì. Che cos'è che mi avrebbe proposto Giachetti? Secondo me sì, è iniziato a leccare il culo alla fine, dai. Sì, io ho leccato il culo a Giachetti, sì, perché? Sì, perché mi avrebbe offerto che cosa, cretino? Ma mica ho detto che ti ho offerto quello. Secondo me tu che hai iniziato a dire, innanzitutto prima dici quelli famosi che io voto questo, spostano i voti e poi cambi idea, dici no ma io forse voterei Giachetti, poi dici io non ho cambiato proprio idea dall'inizio, l'ho detto. Poi che significa, perché ammazza di coglione? Non ho capito. Pensiero, cioè, anche tu come insulti molte volte, scusami, o no? No, ma perché ammazza di coglione? Non ho capito perché ammazza di coglione. Ma tu non insulti nessuno? Ma dipende, se mi attaccano qualche volta sì, dipende. Quanto ti ho attaccato io? Spiegami. No, mica ho detto che mi hai attaccato. Ho capito, hai detto lecchi il culo a Giachetti, ti ha offerto forse qualcosa. Cazzata pazzesca, prima. Ammazza di coglione. Ma io non sto dicendo che è vero. Guarda, ti rodo del culo per i 5 stelle. Quale mi rode il culo per i 5 stelle? Cosa? A parer mio, ti rode il culo per la vittoria dei 5 stelle, ma... Poi? Poi è l'audio, quello che lei ha sentito, cioè non è che... Bravo. Quello che ha sentito, cioè cosa ammazzati coglione, cioè ammazzati, un'espressione così, ammazzati. Adesso come se voi avete ammazzati coglione. No, va bene, ammazzati coglione, va bene. Io seguo sempre questa trasmissione. Ma allora ripetimelo. No, adesso non mi va di ripetere, era un momento che sentivo parlare. Non ti va di ripeterlo, ok. Ciao. Alessandro Udine, vai! Eccoci qua! Vai, dimmelo! Ciao Cruciani, ciao Parenzo! No, volevo tornare sul discorso del dossiero, sulla frase lì dei processi. No, oggi gay, trans, bisessuali, trisessuali, tutte queste cose qua, è considerato normale. Perché apostrofare una persona col termine processo che non è senso? Peggiori ha scatenato sto putiferio. No, ma io sono d'accordo con te. No, non, non è che i trans sono qualcosa di normale, innanzitutto. Cioè, tu non li considerai normali, ma i trans sono una cosa normalissima. Frocetto l'ha scritto in una biografia, ripeto, di quasi 10 anni fa, infatti, del 2007, ma la pensi esattamente come me, non è assolutamente un'accusa omofoba, e siccome è stato accusato di omofobia poi è successo altro, ha detto zingari di merda, forse ha danneggiato la telecamera, eccetera. Ecco appunto il quadro, non è dei migliori, diciamo, però Forza Raggi confermano lo stesso. Ciao. Ma infatti, ciao. Allora, continuano a impazzare, ragazzi, è diventata quasi una rubrica, continuano a impazzare le telefonate a Carlo da Roma. Tutto nasce da questo numero di telefono. Dai di nuovo il tuo numero di telefono, 344-2961-830. Carlo, il nazista. Pronto? Sì, sei Carlo tu? Sì, sono Carlo io. Eccoti, io mi chiamo Jonata e ti chiamo dal Veneto, da Rubano. Io sono ebreo, va bene? Te ne frega. Te ne frega niente, però dici che dobbiamo bruciare. Io c'ho anche ascendenti rom, va bene? Sì, Quindi tu mi hai offeso, non ti vergogni. No, per niente. Tu hai offeso voi, hai offeso tanta gente. Tu hai detto che io ho offeso tanta gente, ma come ti permetti? Io non ho offeso nessuno. Gli ebrei hanno offeso tanti palestinesi hanno offeso gli ebrei. Eppure ma che cazzate dici? Che dico io? Prima di tutto ce l'ho con Parenzo, non ce l'ho con tutti gli ebrei. Hai detto delle stronzate grandi come una casa. Tu fatti i cazzi tuoi, no, dico io. Sono ebreo. Prega, ridimmo un'altra volta. Pure Gesù Cristo era ebreo, eppure è diventato cristiano. Sei un coatto filo nazista. Quello mi piace, capito? Per me il duce era tutto, capito? Tu mi hai offeso e hai offeso tutti gli ebrei che ascoltavano la trasmissione. Ascoltate, perché c'è sta quell'ebreo del merda di Parenzo che è buonista. Pure te sei buonista come lui. Devi chiedere scusa perché hai offeso milioni di persone. Dai zitto, che non capisci un cazzo. Io non capisco un cazzo. Portateli tutti a casa tua, che... la comunità insieme con i rom. Dovresti... Insieme con i rom, gli extracomunitari e i clandestini. Mettetevi tutti dentro un campo. Tu ce l'hai, tu gli daresti da mangiare i rom. stai zitto, che parli a fare? Sì che ci do, sono miei fratelli. Sei tu che sei ignorante come una capra. Vergognati. Sei un filo nazista. Telefona in radio e chiedi scusa. Fai il culo, fai. No, chiedo scusa. Chiedi scusa. Devi chiedere scusa. Senti, testa di cazzo, poi ti dico un'altra cosa, visto che lo sapevi. Io lavoro con la ditta di Treviso. Stronzo. Ah, benissimo, allora. Stai zitto. Ignorate come una capra! Come Parenzo devi andare a fare il culo. Te e Parenzo. Devi chiedere scusa a milioni di persone che hai offeso. Ma va a piangere il culo, va. Ma gli telefonate mi hanno rotto pure i coglioni, va. Quattro filo nazista. Sì, sì. A noi. Viva il Duce. Ma questo si sta facendo male con le sue mani, Parenzo, eh? Questo finisce male perché sicuramente l'hai già segnalato? Beh, davvero l'hai già segnalato? Sì, te lo giuro, ti assicuro. Sì. Hai segnalato tutto? Ho segnalato, denunciato tutto, procede d'ufficio perché. Ma è strano che questo qua non si arrenda, cioè continua a rispondere a tutti quegli ascoltatori. Perché questa non è una... non si rende conto di quello che dice e che fa, ma vedrai che se ne rendrà conto presto e rideremo noi a quel punto. Ma che cosa hai fatto? Una denuncia per che cosa? Non ho capito, istigazione all'odio razziale, Ho fatto una denuncia ex legge Mancino per istigazione istigazione all'odio razziale. Comunque Carlo un po' lodo perché rispetto ad altri che se la fanno sotto come quello prima che ha chiamato, che abbiamo chiamato noi. Ma sai, forse gli daranno la incapacità di intendere di volere, questo io penso che sarà. Però rispetto a questo almeno lui è nazista, dice di pensa quelle cose là e non è che si tira indietro. Non si tira indietro, questo bisogna dirlo, non è che dice no, io non l'ho detto, eccetera, non lo dice. Sarebbe meglio dirlo, a chiedere scusa, ma non lo fa e quindi pagherà. Va bene, dove andiamo, ragazzi? Oh, ma c'è una telefonata che non sia su sta minchia di Brexit maledetta, non ne posso più già. Matteo da Monza, vai, non ne posso più. Non ne posso più già. Matteo da Monza, vai, Matteo, dimmi. Pronto, mi senti? Sì, dimmi. Sì, ma non mi segare ancora prima di parlare, dai, ascolta. Dai, dimmi. Innanzitutto, vi massacrano sempre il programma con il traffico. Io sono incazzato nero perché ho fatto un'ora di coda a Bologna e non ho detto un cazzo. Quindi questi qua il traffico li seguiamo subito, li mandiamo via. Seconda cosa. Volevo sentire un po' l'opinione di Parenzo, professorone, lui che specula sulle cose dei popoli, compra le sterline. Se facessimo una Brian's Exit, usciamo noi, ce ne andiamo noi. Come la vede? Cosa ne pensa? Ma chi? Parenzo. La Brian's Exit, ma la Brian's te la darei in testa io la Brian's. Fatelo. Siamo solo quelli di mantenervi. Parenzo, devi pagare, devi fare qualcosa anche tu, hai capito? Ma la Brianza già non dovrebbe esistere come provincia, per fortuna, le hanno eliminate. Ma che provincia? Ma una nazione sovrana, regno, noi siamo il regno della Brianza. Il regno della Brianza, perché pensate di vivere da soli, dai, su. Viviamo da soli. Aspetta, fermo Matteo, che qui è un caravanserraglio, aspetta. Aspetta, parlaci tu. Pronto? Sì. Lores? Sì, Lores. Buonasera. Come stai? Come stai, Lores? Come stai, amore? Pronto? Tesoro, come stai? Bene, Cruciani, sto bene, tu? Sei contento per la Brexit? Sei contenta? Sì, il prossimo sarà il Veneto, amore bello, santo. Ma vabbè, senti cogliona, senti il deficiente, senti il coglione, senti il Veneto, il Veneto, indipendente. Anche da parte mia, coglione. Il Veneto indipendente, ma deficiente da parte una sega, guarda che sono meglio qui. Ma chi c'è là con te, Lores? Chi c'è con te? Mia sorella. Passami tua sorella, veramente, la gemella, hai una sorella. Pensa tu che famiglia, pensa che disgrazia. Pensa che disgrazia per i genitori avere due gemelle. Poro deficiente. Pensa che disgrazia per i tuoi e pensa che tu fiori. Beh, scusami, passami un attimo tua sorella, Lores. Aspetta che te passo. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Gabriella. Gabriella? Dimmi. Ciao, come stai? Ciao, benissimo. Ma tu sei la sorella gemella di Lores? Sì. Ma scusa, ma sei pure tu indipendentista, veneta, eccetera? Alla grande. Hai pure tu i documenti, il passaporto veneto e tutto? Certo, passaporto e tutto quanto. Parenzo, pensaci tu, dai, con Gabriella. No, volevo sentito parlare quello lì, guarda che attacchiamo il telefono se parla quello lì. No, aspetta, parlaci un secondo. No, ma dico, è proprio l'ultima persona al mondo che voglio sentire. Infatti non vi ascolto più, non ascolto più la Giandara, sì, perché giusto. No, ma dai, non esagerare. La polenta l'hai fatta oggi, la polentina? La polentina, ma vai buona, a cagare, stronzo. Che hai trovato la polenta? Vai a cagare, stronzo. La polenta, che hai trovato la polenta? Certo, la mangiamo. Il carro armato per fare il Veneto indipendente. Che hai trovato anche il carro armato, tutto. Ma questa te che fa. No, ma io adesso sono veramente dispiaciuto. Passami Lores, passami di nuovo Lores. La notizia delle due sorelle è terribile. Due gemelle, due sorelle gemelle. Una famiglia. Una figlia unica. Scusa, ma ce l'avete qualche uomo? Tu, Gabriella, ce l'hai un maschio o no? Siamo due vedove. Ah, due vedove, tutte e due, mortacci. Sì, che ci avete fatto con i mariti? Oh? Che ci avete fatto con i mariti? Ve li siete bagnati? Mariti? Mortacci. Abbiamo fatto come ragna, là, come quasi. Mamma mia. Fatto e mangiato. Ma scusa, ma quanti anni avete da essere vedove? Scusa, 50, 60? Io 66. Ho capito, 66 anni e già sono morti i mariti. E che c'avete? La cosa, mamma mia. Io mi do... Passami Lores. Sono io Lores, Cruciani. Ah, sei tu, ma che ne so, sei la gemella, mi sembrava. Appunto, la voce uguale, no? Anche sì. Vabbè, e Parenzo, di qualche volta ti abbiamo fregato. A Parenzo, cosa vuoi che dica quel coglione lì? Non c'è niente da dire. Il quadretto è questo, le due adorabili indipendentiste. Alza la voce. Le due adorabili indipendentiste, vergini e vedove, che sono chiuse nel loro fortino vero. Che non è vero, coglione, come te, il nostro marito. Non siamo vergini, neanche un po', sai, amore. Vabbè, no. Nemmeno un po', però. Però, no, però non scoperete da anni, dai, non scopate da anni. Sì, perché non è più possibile trovare un uomo come avevamo noi. No, uno per ciascuna, no, uno in... Ma ce l'hai la pistola o no ancora, Lores? Sì, c'ho lo scioppo, c'ho la pistola, c'ho la fionda. Ma uno di questi giorni ti mando i carabinieri là, eh? Ti mando i carabinieri. Mandali, tanto a casa mia non può venire solo la Digos. Altrimenti non entra nessuno. Sì, la Digos. Perché la Digos viene a casa tua? Non ho capito. No, perché la Digos possono avere un mandato per la droga oppure terrorismo. Ah. Allora io sono, mi buttano giù la porta. Ma se vengono i carabinieri, finanze, vigili, eccetera, a casa mia non entra. Ma ce l'hai la cosa o no? Ce l'hai la carta d'identità italiana o no? No, italiana no, c'ho quella veneta, anche il passaporto. Tutto. Non esiste, te lo vuoi mettere in testa? No, io ce l'ho nel portafoglio. Esiste. Ciao, sì. Lores, vai. Ciao tesoro. Ciao. Ciao amore, bene, ciao. Questa è l'Italia, caro Parenzo, è l'Italia, le due sorelle, Lores e Gabriella. Mamma mia, oh. Ti piacerebbe andare a cena una volta con le due sorelle gemelle, Lores e Gabriella? Ti posso dire una cosa? Io piuttosto che andare a cena a casa delle due, mi taglio un coglione, piuttosto, te lo assicuro. Ti tagli un coglione? Sì, piuttosto. Giacomo da Verona, vai. Ciao, buonasera. Vai Giacomo, dimmi. Volevo fare un breve intervento sulla Brexit. Io sono d'accordo con Parenzo, non dovrebbe essere dato il diritto di voto a tutti su tutti gli argomenti. No, per carità, no, in Svizzera votano su qualsiasi cosa, invece sì, da noi no. Sì, no, da noi no. No, da noi no, per carità, perché a me mi sta sui coglioni questa cosa che non possiamo votare sui trattati e sulle cose. Mi sta profondamente sui coglioni. Beh, no scusa una cosa, cioè un conto sono le scelte sui valori, tipo l'aborto, il divorzio. Sì, ma a me sta sui coglioni questa... Ma che vuoi? A me sta sui coglioni che noi non possiamo votare su queste cose. Che ti devo dire? Sui coglioni, invece secondo me è giusto. Vabbè, secondo te è giusto. Sì, ma lasciami spiegare, perché sono scelte politiche, le scelte politiche... Sì, ma la sola spiegazione qual è? Che devono decidere quelli che votiamo, sì, ho capito. Esatto, la consultazione dei cittadini è giusta, ma le scelte, la decisione finale la devono prendere loro. Argomento banale, vai. Non devono lavarsi le mani. Giacomo da Verona, Giacomo. Che dell'interesse collettivo, che rappresentano l'interesse. Mi sembri Zagrebeschi, Alberto da Brescia, vai. È una parola facile, interesse. Alberto. Buonasera a tutti. Vai, Alberto. Cruciani, volevo parlare anch'io della Brexit, volevo dirti però che sei un populista del cazzo, perché hanno ragione quelli che dicono che non si può far fare un referendum su un argomento libertà del genere. libertà. Ma non c'entra niente la libertà. Ma se libertà. Non siamo liberi neanche di libertà. Scegliere quello che mangiamo. Libertà. Secondo libertà. La tua teoria bisognerebbe togliere anche i dottori libertà. Allora. Vai in farmacia libertà. E prenditi le medicine libertà. Che vuoi. Libertà. Ma dai, vedi che sei libertà. Un populista. Sei come libertà. Il tuo amico Salvini, cazzo. Libertà. Sì, libertà, sì, libertà, libertà, dopo, libertà, libertà. Un marel di 70 anni continuano a votare contro il nero, contro l'immigrato. Ma cosa c'entra? Ma cosa dai, c'entra? Ma lo cosa dicono c'entra? Tutte le statistiche che la Brexit hanno ma scelto. Io non sono né favorevole né contraddico, semplicemente che è un diritto delle persone quello di scegliere, capito? Chiaro? Perfetto, allora quando chiaro? Tu vai in farmacia la scegli te la medicina o te la dà il medico? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non è che puoi scegliere su tutto, Alberto, delle cose che non conosci. Alberto, non puoi scegliere. Alberto, ti amo, ciao, ti amo, ciao. Allora ragazzi, perché bisogna scegliere sulla Costituzione? Sai quanta gente è che non capisce un cazzo sulla Costituzione di Renzi il 2 ottobre? Eppure tutti quanti dicono sì, va bene, certo, la Costituzione. Nessuno sa un cazzo di quella roba lì. È uguale, la stessa cosa. Ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.